Benvenuti a tutte e tutte al terzo giorno di questo quarto festival di letteratura sociale. Il festival, per chi non conosce lo spazio che lo ospita, si svolge nella Polveriera Spazio Comune, che è uno spazio che è stato liberato, occupato 5 anni fa e restituito alla città, agli studenti e insomma a chiunque voglia parteciparvi. Giusto per rendervi un po' partecipi, la Polveriera ha avuto varie vicissitudini nell'ultimo periodo. La prima risale a dicembre, quando è stato annunciato lo sgombero di questo spazio da parte della regione per farci degli uffici. E noi per ora siamo ancora qua e non ce ne andremo. E più negli ultimi tempi, forse qualcuno avrà letto sui giornali o quant'altro, di problemi che hanno riguardato il chiostro che è appena fuori dalle porte della Polveriera, il chiostro di Santa Pollonia, che viveva in una situazione abbastanza problematica e che, grazie all'aiuto e alla solidarietà dei compagni e delle compagne della città e non solo, è stato anch'esso liberato e nulla, e anche questo ora è parte della Polveriera stessa. Detto questo, direi che possiamo cominciare subito con la presentazione. Oggi la prima presentazione è Arg, l'opera omnia degli Scarabocchi di Michael e Mirko. Accanto a me ho Michael, non c'è Mirko. Dobbiamo trovarlo. Bisogna trovarlo. E dentro di noi. È dentro ognuno di noi. Grazie. Bene. E allora, niente, parla, ti lascerei immediatamente la parola, ti chiederei di raccontarci un po' di questi Scarabocchi, se così si possono definire, che in realtà con pochi tratti, almeno a parer mio, racchiudono interi universi, mi verrebbe da dire. E niente, dici un po' tu. Spieghiamo gli universi. Ditemi se parlo troppo forte, troppo piano, o se dico stupidaggi. Ora mi sentite, anche se uscite. Anche se tornate a casa, continuate a sentirmi. Si può abbassare un po', se no. Mi sembra di parlarmi nel cervello. Va bene, ok. Adesso però non so che dire, alza il cervello. Innanzitutto partiamo perché Scarabocchi penso che bene o male li conoscete, o è facile conoscerli perché sono nati la seconda volta, sono nati su internet, sono nati più su internet, dalla pagina Facebook. Oggi siamo venuti a presentare la versione cartacea, in carta e ossa, di tutta la storia di Scarabocchi, che d'accordo con la Bau Publishing abbiamo deciso di trasporre pari pari in un'edizione apposta, una collana apposta che si chiama Opera Omnia, che riproporrà fedelmente tutti gli Scarabocchi. Questo per dire che non ci saranno inediti, diversamente, strano per una cosa che comunque è completamente fruibile, gratis, da chiunque su internet, conterrà rarità, cose strane, cose, progetti un po' introvabili o le storie che abbiamo pubblicato nel tempo su Linus magari, però non conterrà nessun tipo di inedito. Questo perché questo sottolinea una cosa strana di questa edizione, per questo l'abbiamo voluta completa e cronologica, perché Scarabocchi, questa come tante cose che vi dirò dopo, sono cose che non è che sapevo prima di cominciare molto spesso, poi mi chiedono come sono nati i scarabocchi tecnicamente, perché il rosso, perché sono fatti così, perché non sono fatti in un altro modo, cosa volevate comunicare, cosa non volevate dire. Tutte queste cose chiaramente quando uno comincia a scrivere non ne ha la più pallida idea, e non ce n'ha la più pallida idea per tantissimo tempo. La maggior parte delle cose che facciamo, e soprattutto quelle che funzionano, nascono da quella cosa benedetta che si chiama caso. Il rosso è nato per caso, come un colore che mi serviva da mettere sullo schermo, per non renderlo semplicemente bianco e nero. Tutto quello che ho raccontato nasce per caso, cioè legato solamente da un'idea di racconto puro. E tante altre cose che vi dirò sono frutto non di un progetto, ma di un voltarmi indietro dopo tanto tempo che affronto questo tipo di narrazione. Una delle cose più importanti che mi sono accorto andando avanti, l'avevo dorato un po' nel tempo, è che i scarabocchi non sono una strip. Hanno la forma della strip, hanno i ritmi della strip, hanno la confezione della strip, ma sono, questo lo si vedrà banalmente collezionando i libri o comunque affrontando almeno un libro, un lunghissimo chilometrico fumetto travestito da strip. Una sorta di narrazione unica, con dei ritmi, dei personaggi che tornano, dei personaggi che scompaiono, dei personaggi che giocano con il lettore, e dei tempi che superano la singola gag. Questo me ne sono accorto per esempio quando è stato trasposto Scarabocchi a teatro da un mio amico regista, ci conoscevamo da tanto tempo, poi siamo ribeccati dopo tanto che non ci vedevamo. Lui mi ha detto: "Guarda, vorrei fare la versione Scarabocchi a teatro", perché coincideva col suo modo di fare teatro, fatto da assenze, di cose che mancano, di silenzi, di personaggi informi. Scrivimi uno spettacolo. Io ero ubriaco come lui, ho detto sì, e poi il giorno dopo ho detto da solo per a casa, ho detto no, perché non sono un grande fan delle trasposizioni di un'opera in un altro, da media a media, insomma, di fare un film da un libro, un libro da un film. Di solito la maggior parte delle volte, tranne rari casi, tra le grandissime eccezioni, si tratta sempre di un impoverimento dell'opera, anzi funziona solamente quando l'opera originale viene tradita, una trasposizione. E insomma, banalmente ho detto no, dicevo sì, te lo scrivo, non l'ho scritto mai. Se non che alla fine Andrea Fazzini, si chiama il regista, ha deciso, mi ha fatto mandare semplicemente i scarabocchi che avevo fatto, che erano mia, io a quel periodo, ne ha selezionati un 200-300 e li ha rimontati. E poi mi ha invitato alla prima prova. Quindi ho visto, sono stato una cosa che non augura a nessuno, di essere spettatore di se stesso. Bisognerebbe fare spettacoli solo di gente bella che sepolta, perché quando vedere quello che tu hai detto prendere vita è una cosa abbastanza forte. In più ho assistito a una cosa strana, perché praticamente tutto quello che dicevano sul palco io l'avevo scritto, lo sapevo a memoria. Però tutto il discorso insieme era un'altra cosa, cioè la somma di quelle cose che avevo scritto era diversa, l'ordine che aveva impartito Andrea era diverso, e soprattutto sono emersi dei macrotemi che io non sapevo mai di aver affrontato. Sono nati dei discorsi superiori a quelli che io avevo intenzione di fare. Posso, per farvi un esempio del disagio che ho avuto, è come se voi parlate normalmente durante la giornata, qualcuno di nascosto vi registra una frase Mario Fruttivendolo, uno a scuola e uno al lavoro, e poi li rimonta tutti insieme e ti accorgi che stai sempre dicendo le stesse cose. Ci sono delle cose, dei macrotemi che stai affrontando, e li stai affrontando in maniera ossessiva, e soprattutto li stai affrontando da punti di vista completamente diversi, perché Scarabocchi è una narrazione atipica, nel senso che io affronto tutti i personaggi sono ugualmente protagonisti, non ci sono personaggi principali. Questo è la differenza rispetto ad altri tipi di narrazioni, anche a romanzi di formazione dove i personaggi crescono, come invece per esempio il Papa di Dio. Qui sono tutti i personaggi, sono estremamente importanti e sono tutti un punto di vista differente su delle cose che sostanzialmente non sapevo ma mi interessavano. Quindi la versione cartacea è una versione completamente differente, pur se uguale, da quella che potete usufruire su internet. E questo, che questa una cosa che mi terrorizza ulteriormente, è che se ne sono accorti tutti senza che l'abbiamo scritto nessun tipo di comunicato stampa, nemmeno con la casa editrice. Tutte le recensioni che sono uscite fuori dicono: ma sembra un'altra cosa. Anche quando qualcuno magari mi fa una foto al libro e mi manda su internet, su Instagram, la foto preferita, sono sempre scarabocchi che magari non erano molto piaciuti, parliamo in termini banali di like, su internet, o che erano, oppure dicono Bob, effettivamente io questo non l'ho mai letto, ma i fatti nuovi, questo non ho, da fan che magari li sanno a memoria. Questo il motivo, penso, che vada ricercato in quello che è la forma fumetto. La forma fumetto, voi sapete, non nasce semplicemente dall'unione del testo e del disegno, perché testo e disegno possono significare altre cose, per esempio il racconto illustrato, o banalmente una fotografia con didascalia. Non è che se tu aggiungi un testo a un disegno diventa fumetto. Il fumetto è un'altra cosa. Il fumetto è, è una narrazione fatta di cose raccontate e la maggior parte di cose non raccontate, cioè tutto quello che accade in quello che viene chiamato spazio bianco, che è lo spazio che c'è tra una vignetta e l'altra. Se noi in una pagina banalmente disegniamo una mano alzata e nell'altra vignetta dopo disegniamo una mano abbassata, nello spazio bianco c'è tutto questo gesto. Nello spazio bianco c'è la maggior parte del racconto a fumetti. Più un autore è bravo, più lo spazio bianco si allarga, più lo spazio bianco è importante. In questo spazio bianco l'autore di fumetti può fare una cosa importante, che è quella di dettare dei tempi, ma lasciare libero il lettore di avere i tempi suoi. Questo è diverso, per esempio, dal regista. Il regista stabilisce dei tempi, quello teatrale o quello del cinema, e lo spettatore, no? usufruisce l'opera secondo quello che viene ordinato, cioè suggerito, diciamo, dal regista. L'unica maniera, che ne so, di un film è di stopparlo, tornare indietro, se uno si vuole soffermare, però la forma per usufruirne è dettata dal regista. Nel fumetto no, per esempio Il Papa di Dio è un libro che si può leggere nonostante 1000 pagine in 10 minuti, 15 minuti in libreria. Però molti lettori mi hanno raccontato, per esempio, che l'hanno letto in mesi, o soprattutto, cosa che è molto più interessante per il mio modo di approcciarmi ai libri, l'hanno letto nella maniera che io preferisco, cioè iniziarlo a leggere il momento stesso che tu termini la lettura. Io i libri più importanti li ho letti 2 volte, una volta al libro aperto e una volta al libro chiuso, se non più volte. I libri non finiscono quando lo chiudi, no? Chiaramente. E nel fumetto, io questa cosa la ci ho giocato parecchio, perché il fumetto mio è estremamente pieno di vuoti, permetto al lettore di avere delle pause che vuole, no? Puoi iniziare il libro fermarti, leggerne 2, leggerne 3, eppure la storia è compiuta comunque, soprattutto lavorando col discorso di una gag, no? Di una storia immediatamente autoconclusiva in 2 scene. Questo quindi, avendo io un rapporto con il lettore che non solo non tratto da imbecille o da persona da accudire narrativamente, permetto anche che possa avere i suoi tempi, i suoi ritmi, e questo sulla carta porterà, chiaramente, poi quando avendo una collezione completa, saranno almeno per ora almeno 20 volumi, tutti leggibili chiaramente a sé stanti, per forza di cose uno deve interrompere la lettura o questo però permette a me di avere un lettore attivo, non passivo, un lettore che ricostruisca. Non a caso è interessante il fatto che Scarabocchi sia uno dei miei metodi narrativi più apprezzati e amati rispetto agli altri registri grafici che ho, nonostante sia il più povero esteticamente, cioè io non disegno né faccia né occhi, eppure ci si riconoscono tutti. Vero che noi riconosciamo la figura, antropomorfizziamo qualunque cosa, una lattina basta che 2 buchi, la vediamo come una faccia, però è anche vero che raccontare con dei simboli, la prima cosa che ha fatto l'uomo, no? È la cosa più atavica, antica che esiste, quella della rappresentazione. Parlando con Lorenz, LRNZ, Lorenzo Ciccotti, un altro mio compagno di strada nel mondo dei fumetti, ragionavamo su una frase che era di un, non voglio, mi viene a dire Pitagora, ma non era Pitagora, comunque di quegli anni lì, spiegava che noi usiamo il disegno per rappresentare con forme imperfette forme perfette, quindi tutto quello che noi disegniamo è astrazione e riduzione, no? Noi sintetizziamo sempre quando disegniamo, anche quando disegniamo pittoricamente in maniera fotografica. Una foto è una sintesi della realtà, no? Diventando 2D la sintetizziamo. Nel fumetto questo è possibile giocarci ancora di più. Il fumetto in realtà nasce proprio per raccontare il più possibile con il meno possibile, con mezzi poverissimi. La ricchezza del fumetto rispetto agli altri mezzi è proprio quella di poter raccontare, a volte anche in maniera muta, universi difficilissimi. Sembra, nella letteratura è possibile, ma nel cinema per raccontare una storia non occorrono dei budget stratosferici. Sono uno dei pochi, uno dei tanti, no scusate, uno dei tanti vantaggi del fumetto è quello di poter raccontare con poco tantissimo. Io questo proprio l'ho esagerato mostruosamente, raccontando quasi col nulla, no? Raccontando tutti i colori con un colore solo. Per esempio il rosso è un'altra cosa, altre cose sono successe superiori alla mia volontà, che è stato per esempio l'uso del colore, nato per caso, solamente per attirare una sorta di attenzione sullo schermo, che è poi uno dei colori più sbagliati da usare su internet, perché ha una cattiva compressione su Facebook, soprattutto dà fastidio alla lettura anche su carta. È diventato però, ha preso possesso, come i personaggi hanno preso possesso delle mie storie, si è creato una sorta di alfabeto cromatico, durissimo. Cioè, Scarabocchi è nato come un fumetto completamente privo di regole, però come tutte le cose prive di regole poi si autoregolamentano. Adesso ci sono delle leggi che sono nate per caso, che si sono autogenerate, come ha permesso al mondo delle persone che poi si sono autoregolamentate da solo. Non potrei cambiare il colore adesso, in questo fumetto liberissimo. Non potrei, il Papa di Dio ha scritto rosso su bianco, e non se invertissi il colore sarebbe un altro libro, un'altra storia. Non affrontereste nella stessa maniera. Questa è un'altra cosa che ho scoperto sempre, no? Usando come laboratorio il mio tavolo da disegno, e il raccontare prima di pensare cosa raccontare, perché poi gli scrittori si chiede sempre perché racconti, perché scrivi, come si chiede a un calciatore perché giochi a calcio. Poi dopo una persona può passare la vita o a spiegarselo o semplicemente a fare quello che sa fare. Io ho deciso di non indagare troppo sul perché siamo costretti a scrivere, siamo costretti a raccontare storie. Poi d'altra parte mia già sono estremamente bulimico. Scarabocchi rappresenta il mio modo di raccontare, nella bulimia che ho di raccontare storie. Infatti il metodo è andato, forse sono andato verso questa sintesi proprio per fare quello che dicevo prima, raccontare il più possibile con il meno possibile, cercando di morire a pari senza storie più da raccontare, anche se sono convinto che la maggior parte dei miei libri usciranno, vista la cadenza qui, esco postumi. Scarabocchi poi dopo è una striscia classica, questo è importante. Come tutte le cose strane funzionano perché si basano su dei registri classici. Ci sono delle gag classiche, delle strutture classiche, anche il disegno ha una sua anatomia. Per quanto storpio vuole essere, vuole sembrare, se funziona una cosa vuol dire che risponde a delle regole sociali che noi abbiamo, su cui noi possiamo intervenire, modificare, cambiare, stravolgere addirittura, però sempre basandoci su un metodo di raccontare classico. Poi Scarabocchi è tutto e niente, nel senso che per ognuno è estremamente differente. La maggior parte dei lettori nascono dicendo che cos'è questa schifezza, poi ci si affezionano, viceversa. Ogni volta che postano Scarabocchi ne aumentano magari 10 fan e ne diminuiscono 8. È una cosa abbastanza viva, e essendo in assoluto divenire, ormai ha tradito i propri genitori, è superiore a quello che sappiamo raccontare. Una cosa che sempre ho scoperto è che io, grazie a questo modo di raccontare, ho ragionato su delle cose su cui non avevo mai ragionato. Io per quello dico che in realtà le storie non le scrivo io, ma le scrivono i miei personaggi, che non è un abutato, un modo di attirare l'attenzione o raccontare qualcosa di strambo. È esattamente così. Certe storie non me ne sarebbero mai venute in mente se non avessi questi personaggi che mi hanno costretto. Sono andato in territori dove non sarei mai stato. Sono cambiato raccontando le storie. Sono cambiato tanto quanto una persona che si avventura per il mondo e viaggia. Sono diverso, non migliore necessariamente, anzi, e sono effettivamente diventato sono andato vittima in qualche modo. Comunque non ho più il controllo su questo modo di raccontare. Fatto è per esempio che non sono mai stato invitato a parlare prima dei miei personaggi, nessuno trovava interessante quello che avevo da dire. Grazie alle storie dei miei personaggi ora le persone vengono ad ascoltare anche il mio punto di vista, per dire. Quindi tutto quello che faccio, diciamo, non sono il padre di questi fumetti, ma più passa il tempo più ne divento il figlio. Peraltro potrei rispondervi alle domande classiche che mi fanno, tipo dove è Mirko, tanto tutte ho una serie di domande tutte finte, di risposte tutte finte per darvi. Se avete intanto delle domande da fare ve le dico subito, perché poi quando arriva il momento uno o non gira pronte o come me si vergogna, giustamente. E se avete altre cose da chiedermi, perché c'è talmente tanto da parlare che potrei anche stare zitto. Ah, perché va errato. Dicevo, tu hai fatto riferimento alle strisce classiche e hai detto che questo deve molto al registro e a tutto ciò che sono strisce e fumetti classiche. Quali? Io so che tu sei un amante di carnevali, per esempio, però quali ti hanno segnato di più nel mondo delle strisce classiche? Allora, sono... Allora, nei Scarabocchi c'è traccia di tutto, di quello che ho visto e quello che ho immaginato e soprattutto di quello che non ho visto, quello che avrei voluto vedere. Di strisce ce ne sono tante, ci sono tanti dei miei maestri, passiamo per Bonvi fino ai maestri miei, forse tanto c'è di Johnny Hart, di BC, del Mago Witz, poi di tutte le cose delicatissime, che adoro le strisce, quelle un po' più delicate, tipo i Peanuts, ho tanti fumetti anche che adoro, sono nati sulle strisce, anche se poi non, tipo Braccio di Ferro, Popeye o Dick Tracy, Chester Gould, sono nati in forma di strisce, che poi anche in quel caso rimontate, però lì c'era l'idea di davano vita a delle storie più grandi, degli archi narrativi più grandi. Quella era una scuola ferocissima, perché erano strisce che nascevano su dei quotidiani, quotidianamente appunto, e che dovevi, avevano questo, cioè l'autore aveva questa difficoltà enorme di lavorare su tre vignette. Nella prima vignetta dovevi comunque gettare il lettore immediatamente in un mondo, fargli capire di cosa parlavamo, magari fai conoscere anche i personaggi in una vignetta. Nella seconda vignetta c'era quello che succedeva nella storia, e nella terza vignetta dovevi addirittura creare del pathos per far aspettare il giorno dopo il lettore, per tenerlo sulle spine e fargli venire voglia di comprare il quotidiano il giorno dopo. E nonostante queste difficoltà assurde che c'erano in queste tre strisce, riuscivano a creare degli archi narrativi incredibili. Se tu prendi un libro di Chester Gould di quei anni, di Dick Tracy o di Popeye, di Seagar, tu devi andare a cercare proprio la firma con scritto il copyright del sindacato per capire dove si fermava la striscia, tanto era omogeneo il discorso. Poi erano avventure incredibili, articolatissime, gialli, per esempio Dick Tracy erano proprio dei gialli con dei personaggi che comparivano e scomparivano. Di quelli sì, però c'è tanto altro tipo di fumetto, c'è tutto quello che ho letto e soprattutto tutto quello che non ho letto, perché ricordo che tutti noi autori nasciamo chiaramente come lettori. Mi fanno credere molti scrittori, molti autori nuovi che fanno film senza aver visto film, che scrivono libri senza aver letto libri, sono delle puttanate che dicono in giro e che io tendo sempre a cercare di svelare, nel senso, dietro ogni autore c'è... nasciamo tutti come usufruitori di quello che raccontiamo. Io ho cominciato a immaginarmi storie a forza di leggere storie. A un certo punto magari volevo che una storia, immaginavo una storia come potesse finire, il viaggio al centro della Terra poteva finire in un altro modo, cosa poteva succedere se Pinocchio fosse rimasto impiccato e nessuno l'avesse salvato. Quando tu cominci a ragionare in quei termini, quando le storie non ti bastano più o semplicemente cominci a modificarle, è facile diventare scrittore, è facile diventare autore. E soprattutto non si diventa autori senza aver lavorato come lettori, e quindi tante di quelle storie mie sono frutto di storie mai scritte che sono stato costretto a scrivere io, o con piacere magari, ma anche con dovere. Poi dopo io nei Scarabocchi, magari quando c'è una striscia dico questa è estremamente tezuchiana, questa è alla Scozzeri. Noi autori nasciamo anche come ladri, cioè, ma non come viene raccontato, che noi prendiamo una scena qui, la rubiamo qui. Tutto quello che raccontiamo lo rapiniamo graficamente, lo rapiniamo narrativamente. Possiamo rubare uno scrittore, possiamo rubare una camminata a una persona per strada. Tutto quello che prendiamo è preso dall'esistente. No? Più tu provi a inventare una cosa, più l'hai presa da qualcosa che hai già visto. La somma di tutti questi furti fa la cifra dell'autore. Come se io rubo una cosetta a ognuno di voi, piccolissima, che ne so, una catena, ti rubo un anellino d'oro, a quell'altro un pezzo del meccanismo dell'orologio, e poi a casa una grande refurtiva enorme di tutto questo che è il mio bottino. Arriva la polizia, non sa nemmeno restituirlo ai legittimi proprietari, tanto ho sminuzzato i furti e trasformato in una cosa mia. Quindi io riesco a dire questa cosa l'ho presa da questo odore, questo è un odore di quell'altro odore. Chiaramente funziono quando il lettore non se ne accorge. Se se ne accorge vuol dire che non hai rubato bene, che sei stato grossolano nel guardarti intorno. Fine. Avete altre domande importantissime o non importantissime? Vediamo. Vuoi fare una domanda? Sì, noi volevo chiederti una considerazione sul... Sì, infatti, se hai un'idea tua sul comico, sul registro comico, noi abbiamo... stasera, fra l'altro, ci sarà... uno spettacolo dello Sgargabonzi, che è uno scrittore comico, e non so se può aver senso il parallelo di una comicità che non fa ridere, che non punta a far ridere, che fa riflettere o che fa male, fa, non so, te hai detto che questo lavoro ha acquisito senso, poi viene il farlo, però appunto dal punto di vista del registro comico, del registro stilistico che hai acquisito, utilizzato, come la... Com'è? Ecco, ma... Allora, ci sono diversi modi di ridere. Il più sgangherato, il più classico, il più banale è quello di ridere ridendo. Ridiamo tante volte, la maggior parte degli autori miei comici, se tu mi vedi vedere lo spettacolo, magari nemmeno sorrido. Sono diversi modi di ridere, diversi modi di approcciarsi a qualcosa di comico. Dentro Scarabocchi ci sono tutti i miei registri comici. Infatti una cosa interessante è quando tu cominci ad avere un grosso seguito letterario, oppure banalmente solo su internet, viene normalmente considerato come piano piano una persona intelligente e anche da seguire, no? Come un modello, come mi è capitato con dei scrittori, no? Che ho adorato, dei autori che adoravo, cazzo che figo, devo conoscerlo, chissà, interessante. Viene anche scambiato per filosofia Scarabocchi o per poesia, ci tengo sempre a dirlo in qualunque volta che posso parlare, non è assolutamente né poesia né filosofia, è solamente fumetto usato in modo in cui non è mai stato usato. Noi in cui fumetto ancora, penso che fra 1000 anni ne avremo usato ancora l'1%, è un fumetto nuovo, un modo di usare il fumetto in una maniera estremamente personale che non era mai stata usata. Infatti se vai, e qui mi ricollego ai miei diversi modi di ridere, se vai a rintracciare i miei personaggi non c'è da darmi retta perché si contraddicono continuamente. Potremmo dire, sono tutti i miei diversi io, che io faccio, do voce ognuno. In realtà banalmente tutti i miei personaggi la pensano differentemente l'uno all'altro, tutti fanno ridere loro malgrado. Non nasce come striscia comica, non nasce, in realtà non, nulla nasce come comico. Quello che noi chiamiamo come meccanismo comico è una cosa che banalmente la maggior parte delle persone che te lo fai vedere ridono. Però per esempio c'è chi può ridere di fronte a una buccia di banana e chi ride invece di fronte a qualcosa di estremamente più profondo, di più che profondo, più complicato. Qui ci sono tutti, sono decine, centinaia, più andiamo avanti, il tipo di modi di raccontare miei e i modi di recepire. Poi tra l'altro ognuno ride in maniera sua, ride di quello che può ridere. Per esempio a volte capita che racconto delle cose particolari che magari possono ferirti perché tu casualmente per te tocco il nervo scoperto. Non c'è per fortuna un modo di raccontare univoco, come non c'è un modo di usufruire di un'opera univoca. Lo stesso libro, se lo leggiamo io e lo leggi tu, sono due libri diversi. Se tu poi lo leggi fra 10 anni è un altro libro ancora diverso. Scarabocchi, figurati, con tutti questi temi, tutto questo modo, ogni due vignette cambia universo, cambia sfondo, cambiano personaggi, cambia modo anche di ridere. È impossibile tirare fuori il bandolo dalla matassa, non riusciamo a capire, nemmeno io so. Io molto spesso faccio a volte una cosa che per me è ironica, diventa terribile per uno che la legge, o viceversa. Una cosa che uno ci ride e mi ha dilaniato. Però, come sai, ogni opera poi in sé per sé, una volta prodotta, abbandona l'autore. racconta a sé. Tanti autori, viene messo in bocca, tante opere vengono scambiate per qualcosa per cui l'autore non aveva idea, non aveva voglia soprattutto di farlo arrivare in quella maniera. Però come i figli poi quando diventano indipendenti fanno quello che vogliono. Quindi la risposta è che fortunatamente non c'è, non te la posso dare perché non c'è una sola risposta. Come Scarabocchi è un'altra cosa, che è un fumetto fatto estremamente, forse per quello viene scambiato filosofica per una cosa più filosofica, è un fumetto fatto semplicemente di domande. Io considero le risposte un avvilimento della domanda. La domanda secondo me contiene più di una risposta. Dare una risposta sola serve a svilire semplicemente la domanda. Scarabocchi infatti nasce dalle possibilità sono storie di domande, quello che potrebbe succedere se non avere un finale definitivo, anche poi un'altra cosa, come finiscono, no? C'è sempre questo fine ogni due vignette. È un altro modo di raccontare il fatto, di sottolineare il fatto che noi autori non abbiamo mai la capacità di raccontare tutto, di raccontare, la storia non finisce mai. Faccio sempre un esempio: se io racconto la tua vita da quando sei nato a quando sei morto, io non ho tutto, racconto qualunque cosa della tua vita, pari pari, 100 anni duri tu, io scrivo 100 anni la tua storia, comunque non ho raccontato tutta la tua storia perché c'è un prima, c'è chi ti ha messo al mondo, chi tu non metterai al mondo, metterai al mondo, continui, ci sei prima di te e dopo di te, c'è un altro te, cosa avrebbe fatto tu, cosa avresti fatto tu se in quel momento non avresti fatto quella determinata cosa. Cioè l'autore banalmente racconta sempre una fettina di una storia. L'autore in realtà racconta la parte che gli interessa di una persona, è come se uno c'è una torta, noi siamo sempre costretti a raccontare una fetta di questa torta. In Scarabocchi mi ci trovo molto a mio agio perché racconto sempre la cosa più, il cuore di quello che voglio raccontare, utilizzando questa formula di due vignette, che non si sa se fa ridere, questo volevo dire, e a chi fa ridere. L'ho portato da casa. Affrontato la pioggia. E basta, no? Dobbiamo parlare fino a che arrivano i libri. Sono arrivati i libri. Non lo so, se avete altre domande, mi invento altre risposte. Una volta quando parlavo non sapevo, balbettavo solo, era meglio, mi divertivo, era più interessante quello che dicevo. Parlavi dell'autonomia, no? dei personaggi, in particolare degli Scarabocchi. C'è qualche personaggio che ti è sfuggito di mano e con cui sei entrato in contrasto? In realtà praticamente tutti, nel senso che i miei personaggi nascono... io scrivo in una maniera... particolare, nel senso non lavoro con la sceneggiatura, faccio i fumetti mentre li faccio, nel senso ho un'idea iniziale per un libro, come era il Papà di Dio, di un Dio che voleva creare senza studiare, con un padre che lo rimproverava per questo, e non sapevo come andava a finire, sapevo che a un certo punto compariva Satana nella storia e via. Li scrivo mano a mano, soprattutto i finali li scrivo sempre con i personaggi, perché non voglio autospoilerarmi il libro, voglio veramente essere il mio primo lettore. Detto questo, chiaramente capirai che non ho nessun tipo di controllo sui personaggi, molti personaggi che nascono sullo sfondo, poi dopo 2000 pagine prendono il sopravvento. Il Papà di Dio, non avrei mai pensato di scrivere un libro su Dio, invece Dio, a forza di fare le vignette, di fare capolino nei Scarabocchi, poi ha voluto una storia di 1000 pagine. Dove poi alla fine il protagonista è in realtà il padre, sono scambiati tutti i ruoli. Non ho nessun controllo, cerco di averne sempre meno. Più funziona che non ho controllo, anche perché così... Ecco, c'è un modo in cui io censuro i miei personaggi, che è quello quando sono banali. I miei personaggi possono dire tutto quello che vogliono, come vogliono, quando vogliono. Unica modo per finire nel cestino è che dicano cose banali. Quello è l'unico... Per tutto il resto sono lì per sorprendermi, quindi più passa il tempo più mi delegittimo e autorizzo loro a raccontare, visto che funziona, che quando raccontavo le storie, se raccontassi la mia storia sarebbero tutte vuote le sedie che sono qui danni a me. Invece le storie dei miei personaggi sono estremamente più interessanti, per fortuna. parallela a te, ma i Super Amici ritornano? Super Amici, sì, non ci siamo mai lasciati. Super Amici sono, per chi non lo conoscesse, siamo nati come collettivo. In realtà no, siamo nati come autori singoli. Poi ci siamo riuniti in un collettivo nato, diciamo, dalla reciproca stima o dal reciproco modo di raccontare. Riflettevo l'altro giorno su Super Amici, perché poi abbiamo fatto una rivista insieme per tanto tempo e poi abbiamo fatto la puntata, siamo separati e tutto. Adesso siamo come autori singoli, Tuono Pettinato, Radigar, Dottor Pire e René Z. Forse il nostro modo di raccontare, rispetto che è completamente ognuno diverso dall'altro, però quello che ci accomuna è apprezzare più i fumetti dei fumettisti. Noi adoriamo il fumetto, tutto quello che c'è dietro il fumetto non ce ne frega un cazzo, preferiamo le storie agli autori, tutti quanti. In quello non ci siamo mai separati, perché talmente raccontiamo sempre, siamo vicini in questa cosa qua, che è molto più importante di sentirsi al telefono tutti i giorni, cosa che purtroppo facciamo ancora, nel senso siamo non so, siamo amici, ma siamo proprio super amici. Quindi sì, adesso i libri di Super Amici li trovate dappertutto, quindi poi li mettete insieme in libreria e stanno insieme, non serve che si vedano per forza, si vedono fare cene, pranzi, feste, sempre più rare. Quindi, non, perché ho visto, mi sembra, qualche immagine su Instagram dell'ultimo raduno che hai fatto con i suoi amici. Sì, ogni tanto ce lo chiedono. Come e non si capiva se c'era un... Non si capisce un cazzo quando ci incontriamo, perché ognuno parla. No, perché non si capiva se c'era un fumetto da poter comprare o eravate solo voi tutti insieme un'altra volta. Allora, una volta siamo stati a Napoli Comic Con, ci hanno chiamato per fare un talent show sui fumetti. Abbiamo preso come scusa per rivederci, dopo ci fa piacere, perché difficilmente ci vediamo tutti insieme. Però non avete pubblicato nulla di nuovo insieme? No, facciamo solo libri. È uscito solo B-Comics con la rivista, è uscito lo zero, poi 6 numeri, più 2 speciali, una cina di numeri, tutti. Sicuro? Anche quello francese? Mi manca l'1,5, mi manca, perché non me l'hai mandato, perché non ce l'avevi. Non ce l'ho più. Se lo trovo te lo mando. Vabbè, prima o poi ristamperemo tutto. Speriamo. Lo appunto. Vabbè, ringraziamo a questo punto Michael. Ci sono altre domande? Non so, direi di no. Se me le fate dopo vi rispondo. Non vanno però in radio. Anche senza e niente, allora la presentazione finisce qua. Ricordo che diciamolo che nel frattempo sono arrivati i libri e li trovate al banchino qua fuori, in fondo a destra. E niente, il festival prosegue tra poco con la presentazione dei fratelli Michelangelo di Vanni Santoni. Grazie mille.